giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Quasi 5 milioni di euro per aprire la strada all'impiego dell'intelligenza artificiale nella sanità regionale. Due i progetti sulla diagnosi delle malattie rare e sulla valutazione automatica di TAC, raggi e risonanze magnetiche. Previsto l'acquisto di un supercomputer, il top dei supercalcolatori da inserire in un data center di nuova generazione. Un uomo di 32 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale avvenuto alla periferia di Azzano Decimo. La sua moto è uscita di strada, pare senza il coinvolgimento di alcun altro veicolo, finendo contro un muretto. Disco verde alla finanziaria della famiglia Del Vecchio per salire fino al 20% delle quote di Generali, un'operazione che potrebbe ripercuotersi anche sugli equilibri di Mediobanca, il salotto buono della finanza italiana. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari i voli in partenza sono pieni, ma i prezzi dei biglietti sono più alti rispetto al passato e gli aumenti hanno poco a che fare con l'inflazione. Il canto come strumento per superare le mura del carcere. Alla casa circondariale di Trieste l'esibizione canora di un gruppo di carcerati grazie al progetto della conferenza permanente sulla salute mentale nel mondo. Il Politeama Rossetti di Trieste domani alle prese col fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, uno dei musical più amati e più rappresentati al mondo. Produzione e scenografia sono pronte ad alzare il sipario triestino. Nostra intervista al presidente del Politeama, Granbassi. L'Himalaya di Nives Meroy, l'alpinista friulana reduce da una nuova avventura ad alta quota, ha raccontato l'esperienza a Tolmezzo in chiusura della rassegna Le vie dei libri. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. Sono due in Friuli Venezia Giulia i progetti di impiego dell'intelligenza artificiale in sanità. Il primo punta al supporto nella diagnosi delle malattie rare, abbreviando il percorso verso la diagnosi. Il secondo riguarda la valutazione automatica delle immagini diagnostiche, sfruttando gli algoritmi per elaborare, identificare e classificare eventuali anomalie o lesioni. Cosa significa tutto questo per il mondo sanitario, accademico, della ricerca e anche per noi utenti? Le malattie rare hanno un ritardo diagnostico di almeno 8 anni e il 40% dei malati ha una diagnosi sbagliata, non ce l'ha o riceve una terapia errata. La diagnosi è celata nelle cartelle cliniche, una mole enorme di dati, dalla biologia alla genomica, che troppo spesso non siamo in grado di gestire. L'intera rete della ricerca del Friuli Venezia Giulia si unisce ora per sviluppare sistemi innovativi volti a identificare i pazienti a rischio e fornire alla regione tecnologie di nuova generazione sviluppabili in vari ambiti, non solo sanitario. Tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, che si stima abbia il potenziale di migliorare gli esiti delle cure del 30-40%, riducendo nello stesso tempo i costi fino al 50%. Due progetti, finanziati dalla Regione con circa 5 milioni di euro, sotto l'egida del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare di Udine e che vedranno la partecipazione di Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Università del Capoluogo Friulano, Area Science Park e Sissa di Trieste. Come ha ricordato Maurizio Scarpa, responsabile scientifico del progetto, le terapie sono efficaci se vengono somministrate al momento adatto o prima dell'incurabilità della malattia. Lo sviluppo di algoritmi, anche tramite l'acquisto di un supercomputer inserito in un data center presso l'Università di Udine, permetterà di elaborare miliardi di dati in tempo reale. L'algoritmo verrà addestrato a sapere dove cercare, in questi miliardi di dati, i campanelli d'allarme per capire dove può celarsi una patologia rara. La tecnologia servirà anche alla definizione di nuove terapie e verrà messa a disposizione di altri enti, dall'industria alla ricerca agli enti pubblici. Potrà essere usata infine per formare una nuova generazione di medici esperti anche tramite sistemi digitali di simulazione e sviluppare sistemi di chirurgia robotica per le operazioni più complesse. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un uomo di 32 anni è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto ieri intorno alle 22:30 ad Azzano Decimo in via Cesena. L'uomo alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada contro un muretto. La vittima si chiamava Gheorghe Felea e risiedeva ad Azzano. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Pordenone, nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto sul posto. Oltre agli uomini dell'arma e ai vigili del fuoco sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario e l'elicottero. Vane le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico, purtroppo non è stato possibile rianimare il giovane. L'economia: grandi manovre in casa Generali. La famiglia del Vecchio ha avuto il via libera per salire fino al 20% del Leone di Trieste. Possibili ripercussioni anche sull'assetto di Mediobanca e sui movimenti di Caltagirone e Benetton. Il servizio di Fabio Maritano della nostra redazione di Milano. Il via libera dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni è arrivato venerdì. L'effetto in borsa è di oggi, con il titolo di Generali Assicurazioni che sin dall'apertura mette a segno un guadagno di circa 5 punti. Tutto dopo la diffusione della notizia che Delfin, finanziaria del gruppo Del Vecchio, ha ottenuto l'autorizzazione a superare il 10% delle azioni di Generali. Una richiesta avanzata dal gruppo Veneto, almeno ufficialmente, solo per sanare una sorta di disguido tecnico, il superamento della soglia dovuto al riacquisto di alcuni titoli. Ma l'autorizzazione a superare il 10, addirittura arrivare al 20%, apre scenari impensabili. Solo un anno fa un gruppo di azionisti guidati proprio da Del Vecchio tentò la scalata a Generali, ma andò male. Il controllo rimase a Mediobanca, che con il 13% è azionista di riferimento del colosso assicurativo triestino. Ma da oggi i rapporti di forza potrebbero cambiare, anche perché il gruppo Del Vecchio in Mediobanca ha già il 19,8%. A ottobre si aprirà la sfida per il rinnovo dei vertici della stessa Mediobanca e se il gruppo Del Vecchio troverà alleati solidi potrebbe ribaltare gli equilibri. A quel punto la presa su Generali non troverebbe più ostacoli. Da Milano, Fabio Maritano. Aeroporti affollati, aerei pieni e cieli solcati da voli di linea e charter in direzione delle vacanze. Ma quanto costa solo di biglietto aereo la vacanza del 2023? Le tariffe sono esplose, soprattutto quelle dei voli interni. Siamo andati a sentire gli umori dei passeggeri al Trieste Airport. Secondo l'Istat, i prezzi dei biglietti aerei sono rincarati del 44% per le destinazioni nazionali e del 36% per quelle estere rispetto ai prezzi di un anno fa. Aumenti che, secondo le associazioni di consumatori, non sono in linea con l'inflazione. Le dinamiche in gioco sono altre, sottolinea Lina Sguassero, avvocato di consumatori attivi, perché all'aumento della domanda di chi non ha potuto viaggiare per anni causa Covid è corrisposta in segno opposto la riorganizzazione delle compagnie aeree che nel corso della pandemia hanno diminuito il personale e di conseguenza il numero dei voli tuttora disponibili. A ciò si aggiunge la questione del prezzo del carburante. Se è vero che il suo costo ora è diminuito intorno al 45%, d'altra parte le compagnie dovrebbero averlo acquistato lo scorso anno, quando i prezzi quindi erano al massimo. Le linee aeree hanno poi necessità di ripianare le perdite subite nel corso della pandemia e questo spiegherebbe gli aumenti dei prezzi. Tra i vacanzieri che oggi partono da Ronchi dei Legionari per andare a Palermo, le opinioni sono variegate, passando da chi ha pagato di più rispetto ai prezzi attuali, prenotando addirittura mesi fa, a chi è disposto a pagare di più pur di andare in vacanza. Ma le agenzie di viaggio che registrano gli andamenti dei prezzi attestano gli aumenti. Alessandro Cataldo, legale rappresentante di un'agenzia viaggi di Monfalcone, ci ha spiegato che il mercato libero del traffico aereo ormai consente alle compagnie low cost di raggiungere i prezzi delle compagnie di linea e addirittura di superarli con allineamenti su livelli medio-medio-alti. Ronchi dei Legionari, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca. Domani a Pordenone l'interrogatorio da parte del GIP dell'anziano di Fiume Veneto indiziato del reato di omicidio per la morte della moglie. Il suo legale intanto chiede alla magistratura di convertire la misura preventiva in carcere in custodia ai domiciliari, vista l'età, 75 anni, e lo stato di salute. Ha appena incontrato il suo assistito che da sabato si trova in carcere a Pordenone, fermato per l'omicidio della moglie Laura Pina di 74 anni, trovata senza vita nel letto dell'abitazione di Fiume Veneto dove risiedeva la coppia. Antonino Di Pietro, legale del 75enne Severino Sist, riferisce di averlo trovato confuso e provato. L'ho trovato confuso. Io non so se sia una situazione conseguente alla morte o se questa cosa venga da più lontano. Ha difficoltà a ricordare le cose, accavalla i ricordi. L'ho trovato veramente confuso e provato. L'avvocato con ogni probabilità chiederà una perizia psichiatrica. Più probabile che possibile. Sist, che ha un precedente per maltrattamenti, ha confermato la sua versione dei fatti, giustificando gli ematomi sul corpo della moglie con alcune cadute accidentali dal letto. Allo stato io posso dire che non mi sembra una persona che abbia architettato qualche piano omicida. Poi l'augurio è che le evidenze scientifiche confermino queste cose. Domani è attesa l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari e soprattutto l'autopsia sul corpo della vittima preceduta da una TAC già eseguita stamani. Esami che permetteranno di chiarire la natura delle chimosi rilevate al mento e alla fronte dell'anziana e di definire la causa e l'ora della morte, che risulterebbe precedente a mercoledì, giorno in cui il medico di famiglia ha constatato il decesso della donna dopo essere stato allertato dalle assistenti domiciliari che avevano in carico la signora da tempo malata e inferma a letto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si chiama articolo 4 Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa, l'iniziativa dei cittadini europei contro la violenza alle frontiere d'Europa che ha avviato una raccolta di firme. Dal 10 luglio i promotori raccoglieranno firme per sostenere l'iniziativa davanti alla Commissione europea. In un anno di tempo dovrà essere raccolto 1 milione di firme in tutti gli stati membri dell'UE con l'obbligo di raggiungere una quota minima in almeno 7 paesi. L'iniziativa attiva uno strumento di democrazia partecipativa che può indirizzare il Parlamento europeo verso un atto legislativo. L'articolo 4 a cui si fa riferimento è quello della Carta dei diritti fondamentali della UE, in cui si afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti disumani e degradanti. Per il commercio e la stagione dei saldi scattano giovedì 6, ma partono anche le serate con i negozi aperti fino a tardi. Lo scorso fine settimana l'iniziativa si è tenuta a Udine, il prossimo weekend si terrà a Trieste. Quest'anno la notte dei saldi di Trieste si trasforma in un lungo weekend con un programma di esibizioni e iniziative che accompagnano le offerte e gli sconti dei negozi. Si comincia giovedì 6 con il concerto itinerante per le vie del centro della banda Vecia Trieste, mentre venerdì 7 tocca alla civica orchestra di fiati Giuseppe Verdi. Invece sabato, il giorno clou, si parte alle 17 con l'animazione per bambini in piazza Ponterosso, mentre in piazza Goldoni, piazza Cavana e viale 20 settembre saranno distribuiti gadget da animatori. Alle 20.30 l'esibizione degli atleti della Società Ginnastica Triestina in piazza Sant'Antonio, mentre il coro Amici per Caso farà una serie di flash mob in diversi punti del centro. La musica in Corso Italia e piazza della Borsa inizia alle 20 e durerà fino a mezzanotte. Come per la Barcolana, per chi viene da fuori, è prevista la formula Park and Bus, con 50 parcheggi garantiti nelle vicinanze del centro e il biglietto dell'autobus gratuito. La notte dei saldi arriva in un momento storico complesso, spiega Manlio Romanelli, vicepresidente di Confcommercio, con l'inflazione che fa diminuire i consumi delle famiglie. A Trieste, però, la situazione viene compensata dall'afflusso dei turisti, cresciuto negli ultimi mesi, un equilibrio che permette ai commercianti di mantenere la fiducia per il futuro. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo il meteo, cielo coperto sulla nostra regione, queste le temperature, 25 gradi a Trieste, il mare è calmo con temperatura dell'acqua di 24 gradi, a Pordenone e Udine 20 gradi e mezzo, 20 gradi a Gorizia, 19 gradi e mezzo a Tolmezzo, 16 e mezzo a Tarvisio, 16 a Forni di Sopra, 14 a Piancavallo e Sappada. Sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 10 gradi e mezzo, in costa a Lignano e Grado 23 gradi con temperatura del mare nelle due località di 26 gradi. E vediamo le previsioni. Un pomeriggio caratterizzato da variabilità e instabilità. Il cielo sarà variabile su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna. Saranno possibili piogge e rovesci sparsi e intermittenti su diverse zone, con maggiore probabilità nella notte e poi di nuovo nel pomeriggio, ma non esclusi anche in altri momenti, e saranno possibili temporali. Domani giornata caratterizzata da variabilità con copertura nuvolosa più consistente sulla zona montana e meno sulla costa. Saranno possibili piogge e rovesci sparsi e intermittenti, ma con maggiore probabilità tra pomeriggio e sera. Saranno possibili anche temporali a Trieste. Potrà soffiare bora moderata. E appunto, Trieste, la città del vento, il primo albero del vento installato in Italia, sfruttando le raffiche, garantisce energia a un parcheggio dove si possono ricaricare auto ad alimentazione elettrica. È stato realizzato nello spazio dello stabilimento della BAT, la British American Tobacco, a Bagnoli della Rosandra. L'albero è un sistema di produzione elettrica dotato di 36 turbine eoliche indipendenti che intercettano tutte le raffiche di vento convertendole in elettricità. È in grado di resistere a velocità del vento superiori ai 180 km orari ed è stato progettato da un'azienda tedesca. Un cortile del carcere di Trieste si è trasformato stamattina in un palco per il coro del progetto La Voce Oltre le Mura, momento conclusivo di un laboratorio musicale cui hanno preso parte diversi detenuti. La voce ci rappresenta, parla di noi stessi, ma anche ai cuori degli altri. La voce ci permette di andare oltre i muri. Sono le riflessioni dei detenuti che negli ultimi 4 mesi hanno affrontato un percorso di elaborazione delle emozioni. Cambiare dentro, costruire fuori, il titolo del progetto portato nella casa circondariale di Trieste dalla Conferenza Permanente per la Salute Mentale Franco Basaglia. Un percorso che aiuta a conoscere se stessi, ascoltare l'altro, stare insieme e condividere tutti i valori di cui si avrà bisogno una volta usciti dal carcere, nella società e nella famiglia. Un'attività utilissima per i detenuti, ma anche per gli operatori e i familiari che sono entrati nel mondo del carcere, un'istituzione che deve essere conosciuta anche da fuori, ha sottolineato il direttore Graziano Puglia. Al concerto sono stati invitati infatti anche i familiari, scene emozionanti, un padre che ha abbracciato sua figlia dopo 2 anni, un altro detenuto che cantava con il sorriso e lo sguardo fisso sulla fidanzata che è venuta ad ascoltarlo, momenti commoventi anche per chi è venuto solo a seguire l'evento conclusivo di un laboratorio che sembrava uno tra tanti che si fanno al Coroneo di Trieste, laboratori che vanno dall'arte alla musica e altre attività creative, ma anche corsi di formazione professionale per acquisire competenze spendibili dopo aver scontato la pena, 12 quelli finanziati dalla regione che dovrebbero partire ora, come ad esempio la pasticceria, la cucina per le donne, il corso di ristrutturazione e decoro di esterni e interni, con la parte pratica eseguita proprio nel carcere, ridipingendo i corridoi e ristrutturando le pareti esterne, ma anche un corso di competenze trasversali per il lavoro di gruppo. Tante le attività nelle quali però bisogna anche garantire la sicurezza dei detenuti e degli operatori esterni, competenze della polizia penitenziaria che sta scontando una carenza di organico di 30 unità. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Domani al Politeama Rossetti di Trieste arriva il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, uno dei musical più amati e più rappresentati al mondo per la regia di Federico Bellone. Le prove con i protagonisti Ramin Karimloo e Amelia Milo sono state fatte a New York, ora la produzione e scenografia sono pronte per l'alzata del sipario. Sentiamo il presidente del Politeama Rossetti, Francesco Granbassi. Prima volta in Italia, in Trieste, nel Friuli Venezia Giulia, hanno l'onore di ospitare questo spettacolo, lo spettacolo più visto al mondo, ma sarà così un piacere anche per spettatori provenienti da 70 paesi diversi. Ben 70 nazioni del mondo così arriveranno a vedere Phantom of the Opera, già questo dato dice l'importanza e la bontà di quanto messo in campo dal Rossetti, dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È stata un'operazione faticosa quella di portare il fantasma dell'opera a Trieste? È stata un'operazione un'operazione nata da lontano ma che si è concretizzata poi nell'ultimo anno. È stata un'operazione sicuramente complessa, ma quando le cose si fanno con entusiasmo la fatica non si sente. Che aspettative ci sono per questa serata allora? Grandi aspettative, abbiamo un cast che secondo me è il migliore di sempre, basti pensare a Ramin Karimlo e a Earl Carpenter, Bradley Jaden, quindi veramente le aspettative sono tante. Incominciamo con queste serate di anteprima e il 13 la grande premiere con una serata che sarà memorabile. Insomma, un momento molto importante anche per tutta la città di Trieste. Direi di sì, c'è stato veramente un bellissimo coinvolgimento di tutta la città e quindi mi piace citare così anche l'apporto che hanno dato i commercianti di Trieste, e in tantissimi hanno allestito delle vetrine a tema dedicate al fanto. Parliamo ancora di teatro, parliamo dell'ERT, l'ente regionale teatrale, che ha presentato in mattinata la sua prossima stagione. Con noi in studio Francesca Terranova. Cosa propongono? Grandi interpreti, artisti emergenti e innovazione nel nuovo cartellone dell'ente regionale teatrale, più di 100 titoli e 250 repliche nei 28 teatri per formare il pubblico. Questa è la missione del nuovo direttore Alberto Bevilacqua. La stagione in corso segna infatti la fine dei 18 anni di direzione ERT di Renato Manzoni. Tra i nomi della prossima stagione citiamo Umberto Orsini, che affronta i fratelli Karamazov, e anche la commedia di Neil Simon, I ragazzi irresistibili, insieme a Franco Brancio. Ci sarà Silvio Orlando con una prima nazionale di una commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, Ciarlatani di Pablo Remon, e poi Sergio Castellitto interpreterà Zorro, tratto dal romanzo Un eremita sul marciapiede di Margaret Mazzantini. Valeria Solarino con Gerico Innocenza Rosa, un testo che affronta la questione dell'identità di genere, e vicino a questo tema Dentro una storia vera, se volete, spettacolo in cui Giuliana Musso e Maria Aris raccontano la storia di una donna, di un segreto e di una verità che la lotta per uscire allo scoperto. Per i concerti, Amara, cantautrice toscana, ritornerà con un progetto dell'Accademia Musicale Naonis, Con amore e con coraggio il titolo, insieme alla soprano Franca Adrioli e l'accompagnamento di archi e pianoforte. Ritornano poi le maschere della famiglia Floz con due spettacoli, Hotel Paradiso e Teatro Delusio, e poi l'energia dei Black Blues Brothers, 5 acrobati con un tributo al film culto con John Belushi. Per il teatro alternativo, a fine settembre, un viaggio interattivo nel mezzo dell'inferno di Dante Alighieri, spiegato con la realtà virtuale e l'utilizzo del visore. Tra le produzioni regionali segnaliamo quella del CSS di Udine, Il Dio del Massacro, commedia tradotta in friulano e interpretata da Fabiano Fantini, Rita Maffei, Massimo Somaglino e Aida Taliente. E noi ringraziamo Francesca Terranova e passiamo dal teatro alla musica. Ma che sembrano popcorn, mi guarda, vuole fare un porno. Dico che dice un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 20 kg la mia non appesa, meno del pendente che al collo. Guardami mentre l'Italia vuole. In 10.000 a Palmanova ieri sera per Sfera e Basta, moltissimi sono giunti anche da fuori regione per assistere alla prima tappa del nuovo tour estivo del rapper. I primi erano già arrivati di mattina nella città stellata e poi c'è stato un flusso continuo che si è andato intensificando per tutta la giornata fino alle 21.30, quando il concerto ha avuto inizio. Un'ora e mezza di spettacolo che ha visto Sfera presentare tutte le hit che hanno fatto la fortuna dei suoi album. Prossimo appuntamento della rassegna dell'estate di Stelle a Palmanova il 7 luglio con il comico Pintus. L'Iran delle proteste, delle violenze di regime e della segregazione che colpisce soprattutto le donne, a Udine, a Festil, il festival estivo del litorale. L'attrice Cinzia Spanò leggerà un testo della scrittrice Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran, alle 21 nella corte di Palazzo Morpurgo o, in caso di pioggia, al Teatro Palamostre. L'alpinista Nives Meroy, reduce dal successo della spedizione compiuta in maggio sull'Himalaya col marito Romano Benet e gli altri due compagni di squadra Peter Hamor dalla Slovacchia e Jan Bojan dalla Slovenia, ha raccontato la nuova avventura a Tolmezzo al Festival Le Vie dei Libri. Una spedizione che mi ha riappacificato con le montagne himalayane che negli ultimi anni sono state prese d'assedio dal turismo d'alta quota. Così Nives Meroy ha raccontato l'ultima impresa compiuta con il marito e compagno di una vita di scalate, Romano Bennett, nella prima uscita pubblica dopo il ritorno dall'Himalaya al festival Le Vie dei Libri di Tolmezzo. In squadra con altri due alpinisti, lo slovacco Peter Amor e lo sloveno Jan Bojan, Meroy e Bennett hanno raggiunto a quota 7.318 metri la cima del Cabru 4, vetta meridionale di una cresta al confine tra Nepal e India, a sud della catena del Kanchenjunga, che era stato il primo 8.000 a essere affrontato dalla coppia dopo la guarigione di Bennett dalla malattia che lo aveva colpito nel 2009. I quattro sono arrivati in cima al Cabru 4 nell'unica finestra favorevole dopo giorni di tentativi costellati dal maltempo. «Ci siamo avventurati su una parete ancora mai salita dal versante nepalese», ha detto Meroy, mentre sopra di noi c'era un andirivieni di elicotteri che facevano da servizio taxi per il campo base del Kanchenjunga. Il risultato è una nuova via, Diamonds on the Soles of the Shoes, il cui nome si ispira al tracciato costellato di ghiaccio vivo e una sorpresa incontrata durante la discesa, ovvero la grotta di diamanti dove abbiamo bivaccato, ha spiegato Meroy. Durante la discesa era sopraggiunto il buio e ci siamo fermati per qualche ora in questa grotta che, illuminata dalle luci delle lampade frontali, sembrava veramente fatta di diamanti. «È stata una bellissima esperienza perché si è trattato di alpinismo», ha aggiunto ancora Meroy. «Affrontare una montagna nuova, trovare la via, salirla con le proprie forze». Così come lei e Bennett hanno fatto in tutta la loro vita dedicata all'alpinismo, che li ha portati tra il 1998 e il 2017 a essere la prima coppia ad aver salito tutti i 14.800 himalayani senza l'ausilio dell'ossigeno. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Il quintetto Portegno, il gruppo musicale Veneto Friulano, conosciuto a livello internazionale per il suo originale repertorio tango jazz, si esibirà a Praturlone di Fiume Veneto, nel piazzale della chiesa, alle 21. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Non si terrà invece al Castello di San Giusto il concerto di stasera della cantante cubana Omara Portuondo per una indisposizione dell'artista 92enne. L'appuntamento con la diva dei Buena Vista Social Club è solo rinviato a giovedì 13 luglio. Sono le 12:56 minuti 15 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Andrea Fontanotte e da Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Per il momento ci fermiamo qui. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cajazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.